Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:08, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, la mail vivavoce@radio24.it. E ora tocca all'università. Dopo la scuola sembrano giorni decisivi, una settimana decisiva per una proposta di riforma del sistema universitario italiano, anche se l'onda, come è stato ribattezzato questo movimento di protesta, sembra in questi giorni proprio consigliare più prudenza al governo, almeno si leggono indiscrezioni in tal senso sui giornali di un Berlusconi tentato a far slittare di qualche giorno la riforma, il ministro Calderoli addirittura che dice la prima persona che dovremmo chiamare per fare questa riforma, indovinate chi è? Veltroni, insomma... mettersi a un tavolo tutti a discutere. Da una parte c'è chi dice ci vuole una profonda riforma, c'è l'università dei baroni, degli sprechi, dei tantissimi docenti e dei pochi ricercatori, della proliferazione degli atenei, delle sedi distaccate, dei corsi di laurea. Dal mondo universitario invece si risponde, insomma, l'approccio finora avuto con la famosa legge 133 è quello sbagliato, ci saranno gli sprechi, ma per ora si prevedono solo tagli all'università, tagli indiscriminati a partire dall'anno prossimo, neanche tantissimo, 63 milioni, ma poi questa cifra dalla finanziaria prevista aumenterà a 700 milioni, fino quasi al miliardo nel 2011. Tagli che, dicono, mettono a rischio l'intera struttura universitaria. Come cambiare l'università? Di questo vogliamo parlare oggi. Voglio salutare il presidente della CRUI, la conferenza dei rettori, e il rettore della statale di Milano, Enrico De Cleva. Buongiorno professore. Buongiorno benvenuto. A lei. Così come saluto il professor Luca Ricolfi, economista, sociologo, insegna all'Università di Torino e anche editorialista della Stampa. Proprio oggi scrive anche sulla Stampa su questo. Benvenuto Ricolfi, buongiorno. Buongiorno. E voglio salutare anche Paolo Cornaglia Ferraris, che è un medico pediatra, ha scritto un libro nuovo, ne ha scritti tanti nella sua carriera, il più famoso, no? Quello Camici e Pigiami. Quello che ha scritto da poco, è uscito proprio questa settimana, si intitola La casta bianca, viaggio nei mali della sanità. Ovviamente si parla di sanità, ma c'è un lunghissimo capitolo, una parte centrale dedicata proprio al rapporto università-sanità e quindi, insomma, concorsi e quant'altro. Benvenuto Cornaglia Ferraris. Buongiorno a tutti. Le 9:12 minuti, come cambiare l'università? Qualche dato prima di iniziare la nostra conversazione. Nel 97 gli atenei italiani erano 41, oggi sono più di 94 con 320 sedi distaccate, 5.500 corsi di laurea. Gli atenei in rosso sono 41, molti indebitati con le banche. Siena addirittura è l'ateneo che pare stia peggio, 93 milioni di euro di rosso pare. Un altro dato prima di iniziare: il 90% delle entrate degli atenei servono a pagare il personale. Basta vedere il libro verde sulla spesa pubblica che ho qui davanti, addirittura questa percentuale tocca per l'Università di Firenze il 99,4%, cioè tutti i soldi del fondo finanziamento ordinario vanno per il personale praticamente. A Siena addirittura questa cifra, e si capisce poi perché l'ateneo è indebitato, è il 101,1%, cioè si spende di più di quello che si riceve dal fondo. Rettore De Cleva, poi parliamo di tagli ovviamente che vi preoccupano, ma questi numeri non danno il senso di un'università che è profondamente da riformare? Ma che l'università sia da riformare fuori di dubbio, questi numeri forse andrebbero interpretati un po' meglio, non sono così catastrofici, non sono 41 le università in rosso, sono 6, e il 90% delle entrate, ma non di tutte le entrate dell'università, le università sono tra le poche strutture pubbliche che hanno anche entrate proprie, studenti, sì, ma non solo, commesse, attività di ricerca, quindi non drammatizziamo eccessivamente la situazione, che pure è pesante in vari atenei, che è complessivamente pesante. Qui il nodo è: vogliamo utilizzare un sistema, come dire, giustizialista, cioè mettere l'università al banco degli accusati per condannarla, oppure vogliamo usare una terapia, cioè prendere atto che ci sono dei mali, alcuni gravi, distribuiti variamente nel corpo del sistema universitario italiano, e vedere il modo di intervenire. intervenire. Questo mi sembra la prima scelta di fondo che deve essere fatta. Poi si discuterà nel merito, però l'atteggiamento, il problema dell'atteggiamento è centrale. Da questo punto di vista io registro negli ultimi giorni un certo cambio di atteggiamento da parte della maggioranza o degli esponenti autorevoli della maggioranza, lo considero un segnale positivo. Uno dei mali, per esempio, qual è secondo lei il male dell'università sul quale intervenire? Sono tanti, si va dalla governance, si va dal sistema di reclutamento che ormai ha perso credibilità, c'è il problema dei giovani, c'è il problema di una burocratizzazione eccessiva delle decisioni, quindi il problema del sistema di governo, c'è il problema di un'internazionalizzazione da sviluppare, c'è un diritto allo studio che mobilita risorse del tutto insufficienti. Non si tratta di non è difficile identificare, credo, i punti sui quali far leva per intervenire, quindi non dobbiamo aspettarci, e non è richiesta una riforma di tipo epocale. Sono necessari interventi strategici, mirati, coerenti, ma che possono essere anche attuati in tempi differenziati, con i quali modificare in maniera sostanziale un sistema, insomma, perché questo certamente occorre, e su questo bisogna credo lavorare. Oggi Francesco Giavazzi sul Corriere della Sera dice: tre segnali da dare subito in settimana. Il primo è questo, rettore, sul quale voglio il suo parere. Il problema più urgente è la pioggia di concorsi universitari già banditi, 4-5 mila posti che stanno per partire. Non apriranno le porte all'università ai giovani, scrive Giavazzi, ma promuoveranno docenti e ricercatori che già lavorano nell'università e spesso vi sono entrati senza alcun vaglio. Lunedì prossimo, dunque tra una settimana, tutti i docenti sono chiamati a votare per eleggere i commissari di questi concorsi, i cui vincitori sono quasi tutti noti prima ancora che vengano formate le commissioni, scrive Giavazzi. Sono concorsi truccati. L'intervento è limitato ora, però per esempio il governo potrebbe, per esempio, fare un decreto legge per modificare come fare sorteggiare i commissari invece di farli scegliere. Cioè, sono truccati questi concorsi che arrivano? Bisogna vedere cosa vuol dire truccati, perché anche qui alcune delle conseguenze e dei comportamenti che del mondo accademico sono dei derivati della legge. La legge non è stata inventata ieri. Il paradosso è che il precedente governo aveva modificato il sistema di reclutamento, cioè con la legge Moratti, che peraltro era una legge impraticabile, perché la legge Moratti, gli idonei, che è la pietra dello scandalo, sarebbero passati da 2 addirittura a 5, e quindi la cosa era assolutamente impraticabile. Dopodiché non so perché, perché la cosa non ho mai capito le ragioni a questo riguardo, si è deciso di far ripartire la macchina concorsuale prima di modificare il sistema, recuperando il sistema precedente. È stato sbagliato secondo lei? Ma certo che questo è stato sbagliato, all'origine di tutto c'è questo. A questo punto ci sono aspettative, perché naturalmente i concorsi sono stati banditi, c'è una delegittimazione che è stata attuata a torto o a ragione, ma comunque questa macchina concorsuale rischia di partire con la possibilità che venga poi azzerata da interventi della magistratura. Quindi se non si interviene, io credo che sia questi concorsi siano a rischio. Quindi personalmente ritengo, e molti ritengono, che un intervento sarebbe, sia pure in extremis, sarebbe opportuno. Poi si tratta di vedere. Beh, ma bloccarli è possibile secondo lei? Addirittura bloccare tutto? Bloccarli mi sembra aumenterebbe soltanto il... Cosa si può fare? Sorteggiare i commissari, come dice Giavazzi, almeno per dare una garanzia? È una delle ipotesi che è allo studio, vedremo. Io addirittura direi vedremo nelle prossime ore se intorno a tematiche di questo genere ci sarà un'adeguata convergenza, sì, delle forze politiche. Un decreto legge non è uno scherzo, dopo che ne hanno fatti così tanti. No, sicuramente no. Vorrei andare per un attimo da professor Luca Ricolfi. Lei, Ricolfi, anche oggi, ma anche nei giorni scorsi, scrive proprio di università in prima pagina sulla Stampa, a dire la vera inefficienza del sistema universitario è data dall'autonomia, un'autonomia che ha prodotto risultati disastrosi. Ci aiuti a capire perché l'università italiana in questo momento è sul banco degli imputati come un sistema da riformare profondamente? Ma alcuni aspetti di malfunzionamento dell'università non sono dipendenti dall'università in senso stretto, ma dipendono dalla società italiana come è fatta. Noi siamo una società in cui non c'è una perdita di reputazione se si compiono degli atti assolutamente che sarebbero giudicati assolutamente discutibili all'estero. Penso ai cosiddetti concorsi truccati o ai candidati di valore che vengono esclusi o ai candidati assolutamente inadeguati che vengono promossi. Noi siamo un paese in cui questo tipo di comportamenti, noti a tutti, non sono sanzionati moralmente. Questo è un problema che non è dell'università, è della società italiana. Poi c'è invece un vero problema strettamente universitario, che è quello dell'uso che gli Atenei, non tutti, ma molti Atenei, hanno fatto dell'autonomia. Perché se siamo arrivati a questo punto, non è perché i problemi non sono stati messi a fuoco, è anni e anni che si sa quali sono i problemi di fondo dell'università italiana. Gli Atenei sono stati resi autonomi, relativamente autonomi, e hanno fatto un uso disastroso di questa autonomia. Faccio un esempio che chiunque può controllare nel suo Ateneo. Il tasso di crescita dei ricercatori, quindi parliamo del primo livello di ruolo della carriera universitaria, è stato nel decennio 97-2007 del 17%. Il tasso di crescita del livello superiore, quello degli associati, è stato del 20%. Il tasso di crescita degli ordinari è stato del 46%. Cioè tutti, come quasi... qualcuno ha detto, tutti i generali e pochi soldati semplici per esattamente, rendere... cioè l'autonomia è stata utilizzata non per reclutare dei giovani promettenti, ma è stata utilizzata sistematicamente per ottenere degli avanzamenti di carriera. Tra l'altro questo è uno dei motivi per cui gli stipendi nella pubblica amministrazione crescono nonostante i minimi contrattuali non crescano particolarmente velocemente. Però lei, professore, anche un paio di giorni fa, tornando alla questione etica, visto che lei ha puntato su questo, ha detto che c'è anche una sorta di patto scellerato all'interno dell'università, cioè i docenti dicono: cari studenti, studiate più o meno, tanto noi non saremo mai severi con voi. Gli studenti dicono: bene bene, così arriviamo in fretta alla laurea, abbiamo quel bel pezzo di carta da sventolare che vale così, non si capisce bene ancora perché preso in tutta Italia in questi modi. Insomma, questo patto scellerato produce un livello poi di un livello basso effettivamente della preparazione degli studenti. Certo, questo è qualcosa che osserviamo da tempo, ma è anche una conseguenza dei meccanismi di reclutamento. Cioè, se i meccanismi di reclutamento non sono rigorosi e selettivi, se tutti i livelli precedenti dell'istruzione, cioè scuola secondaria superiore, media e elementari, funzionano male, la qualità media del corpo docente resta modesta, anzi si abbassa nel tempo, e ovviamente avendo dei docenti modesti e degli studenti modesti che sono stati diseducati a competere per ottenere delle posizioni di eccellenza nei loro studi, se abbiamo una situazione di questo genere, allora naturalmente il patto scellerato tra docenti e studenti è il comportamento più naturale. Però questo si aggiunge a errori che avrebbero benissimo potuto essere riparati, cioè un governo e degli Atenei responsabili da almeno 5-6 anni sarebbero potuti intervenire per modificare questa situazione. Invece noi vediamo che, ad esempio, il numero di università in dissesto è aumentato negli ultimi anni, e questo problema si sapeva, cioè l'eccesso di stipendi rispetto all'FFO è un problema che c'è da anni. Il grave è che il mondo dell'università manda un segnale di non comprensione del problema, anziché sarebbe molto diversa se la situazione fosse una situazione nella quale si dice: sì, i problemi ci sono, ma noi stiamo facendo il possibile per risolverli. No, non si sta facendo. Si va avanti così. Per dirlo, l'FFO è il fondo di finanziamento ordinario, appunto, che arriva alle università. No, ma è giusto. Leggo da pagina 119 della Casta Bianca di Paolo Cornaglia Ferraris, Facoltà di Medicina, Roma. In odontoiatria si contano due professori associati, uno è il figlio del direttore generale dello stesso policlinico, l'altro è il figlio del docente di clinica odontoiatrica, potente direttore del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche di un'altra facoltà, un professore associato di chirurgia primario di un altro policlinico e nipote di un ordinario di chirurgia della stessa facoltà romana. Ordinaria di medicina è la figlia di un palazzinaro, moglie dell'ordinario di radiologia, mentre la professoressa, diventata ordinario di odontoiatria in 3 anni, velocità impressionante, Bustamante è la figlia del presidente dei chirurghi italiani, moglie del professore ordinario di cardiochirurgia. Il professore ordinario di otorinolaringoiatria può contare sull'aiuto del figlio maggiore, associato di otorinolaringoiatria, e di quello minore, ricercatore. Il professore associato di medicina interna è figlio del professore ordinario di biochimica, mentre il professore associato di urologia è figlio dell'ordinario di biochimica, rettore di università. Ora, senza nomi e cognomi, Cornaglia Ferraris è una catena di Sant'Antonio che, insomma, lei ha applicato a Roma medicina, ma mi pare di capire dal suo libro si possa applicare un po' ovunque, no? C'è una, nell'università, una terapia urgente da fare contro il nepotismo, che rappresenta un disprezzo sistematico del merito e rappresenta invece un'arrogante, continua e perversa ripetizione di comportamenti che hanno portato in cattedra persone non meritevoli o addirittura incapaci. Questo, per dire, insieme al preside della conferenza dei rettori, è la preoccupazione di chi vede una terapia da fare che non sia il pannicello caldo sull'ulcera purulenta, ma che sia una terapia capace di mettere il dito nella piaga e di curare, perché se no poi si dà troppo spazio al giustizialismo, di cui giustamente il preside della conferenza dei rettori è preoccupato, perché quando le prepotenze arrivano ad essere sistematiche e il disprezzo e l'arroganza fa parte del sistema, si dà spazio ai giustizialisti per, anziché proporre terapie, per proporre semplicemente tagli, bastonate e posizioni che non, che non fanno niente bene all'università. Però lei, Cornaglia, ha preso una posizione anche aggressiva un paio di pagine prima nei confronti dei ricercatori. Spesso si dice ricercatori sono quelli più sacrificati in questo ruolo, e lei invece scrive: ma perché nessuno ha il coraggio di dire che quella dei concorsi dei ricercatori sono per la grande maggioranza concorsi tra virgolette finti? Lo scandalo dei non concorsi per ricercatore, scrive lei, è di gran lunga più grave di quello dei concorsi per professore, ma di questo nessuno se ne lamenta. È una posizione forte. È una posizione forte, perché per diventare ricercatori non è chiesto di essere meritevoli, capaci. Ci sono anche altri tipi di richieste, che sono per esempio quella del servilismo, di fare l'autista al professore per anni, di fare dei servizi che non hanno nulla a che vedere con la capacità di ricercare, di avere idee, di rinnovare, di portare freschezza e di spendere le proprie energie mentali. Si preferisce quasi quasi il ricercatore un pochino più modesto e molto meno brillante, però più incline a servire i desideri del padrone, tra virgolette, e cioè di colui che gli garantirà di poter vincere un concorso. 800 24 00 24 per intervenire, gli sms 349 238 6666. Diamo un paio di ascoltatori. Tullio dalla provincia di Siena, buongiorno. Buongiorno. Dica. A proposito del servilismo dei rettori, che sono anche loro delle nomine politiche, in provincia di Siena il vecchio rettore era indirizzato su una certa parte politica e ha fatto aprire a Montepulciano, di 7.000 abitanti, un'università. Una sede, forse, anche loro, forse una sede distaccata? Una sede distaccata, sta dicendo? Sì, sì. Va bene, grazie insomma, per la sua considerazione, la flash. Marco, dalla provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Ma senta, il nodo del problema è stato già toccato. Io sono laureato da 30 anni e vivo a contatto stretto con l'università da 30 anni. Il problema, quando io mi sono laureato, era già noto: la totale assenza di meritocrazia nelle carriere universitarie. Come molte cose italiche, tutti sanno qual è il problema, ma veramente nessuno schioda nulla, perché il problema continua a ingigantirsi. Io in primavera ero negli Stati Uniti, sono stato umiliato da un articolo che i colleghi americani mi sbandieravano ridendo, rispetto alle percentuali di mogli, figli e nipoti presenti tra gli ordinari italiani. È umiliante essere all'estero. È quello che si legge anche un po', sia un po' nel libro, nei giorni scorsi ci sono stati articoli. Mi creda che essere all'estero a lavorare per un periodo di brevissimo, però per una collaborazione professionale di una certa importanza, e vedere una cosa del genere è umiliante. Io vorrei solo fare una domanda: ma i rettori settori che hanno dal punto di vista delle possibilità di intervento, insomma non dimentichiamo che sono gli amministratori delegati di una ditta, sì. Ma i rettori che si chiamano adesso tutti fuori dicendo che ci sono problemi nelle norme del reclutamento, ma di operativo e di propositivo in questi ultimi, prendiamo solo gli ultimi 30 anni, cosa hanno fatto? Grazie. È una bella domanda, abbiamo il preside della conferenza dei rettori qui, Enrico De Cleva. Rettore De Cleva, vuole rispondere poi a un paio di domande io, ma vuole rispondere agli ascoltatori che dicono, ma i rettori dove sono stati in questi anni? I rettori sono stati 30 anni fa, nessuno dei rettori attuali era rettore, neanche credo neanche quelli con più lunga anzianità. Vabbè, diciamo le responsabilità. Non facciamo battute. Il punto fondamentale è un altro, cioè non dimentichiamo che tutto il problema concorsi, reclutamento, stato giuridico è regolamentato in Italia dalla legge, quindi la legge la fanno i parlamenti su spinta dei governi. Sì, ma la legge si aggira, rettore. No, la legge non si aggira. La legge non si aggira, accade un'altra cosa ed è accaduta un'altra cosa in Italia. Le leggi si applicano e le leggi devono essere fatte pensando che gli uomini sono oggetto di tentazioni e se non si mettono nelle leggi o nel contorno delle leggi dei vincoli, dei paletti, dei sistemi che condizionino, diciamo, in senso virtuoso, è inevitabile che poi scattino tutti i meccanismi perversi che sono scattati. Quindi questo mi sembra il punto. Le responsabilità sono generalizzate, perché in ogni caso è molto più facile denunciare una situazione, scrivere un libro, scrivere un articolo che intervenire effettivamente in situazioni nelle quali poi gli interessi, quelli veri, si muovono, agiscono e condizionano. Allora, vediamo due proposte concrete, mi risponda con un sì o con un no al suo parere. Qualcuno ha detto basta per esempio i docenti a vita, la cattedra che una volta che uno prende basta, non la molla più, perché l'ha scritto credo Michele Ainis un paio di giorni fa sulla stampa, ma non solo. Lei è favorevole o contrario? Ma in questi termini sono contrario, cioè non si possono mettere le cose in questo modo, cioè affrontiamo, in tutti i paesi del mondo si arriva a un punto nel quale il docente ha una certa sicurezza, invertiamo il problema, uno dei punti centrali della civiltà occidentale è stato il fatto che l'intellettuale ha potuto acquisire attraverso principalmente l'università, l'uomo di lettere, l'uomo di scienza, una indipendenza economica che l'ansia regime non gli garantiva. Passando da una posizione di dipendenza personale dal potere privilegiato a una posizione di relativa autonomia economica e quindi di libertà. Questo è il punto dal quale far partire le discussioni e non proposte improvvisate che si inseriscono comunque su situazioni storiche che devono essere considerate. Non siamo in America dove ci sono 2000 università e se uno perde il posto da una parte va da un'altra. La seconda domanda è sul sì o no: il valore legale del titolo di studio, lei lo toglierebbe? Ma io vorrei capire cosa vuol dire il valore legale del titolo di studio. Se significa che abbiamo un sistema di valutazione, di accreditamento serio, fondato, che sostanzialmente si sostituisce migliorandolo al valore, togliamo la parola legale, al valore del titolo di studio, mi pare che sarebbe un passo avanti. Toglierlo senza che ci sia nulla di questa natura significa solo moltiplicare i titoli fasulli, le università telematiche e gli imbroglioni. Non giochiamo sulle cose. Voglio andare un attimo da Ricolfi, tornare per chiederle, Ricolfi, un paio, abbiamo dedicato anche una puntata al libro di Perotti, L'università truccata, in cui una delle tesi del professor Perotti è l'università italiana così come è fatta viene in realtà pagata soprattutto dai poveri per le famiglie dei ceti più benestanti, e quindi la soluzione invece sarebbe quella di aumentare le rette. È una soluzione che può sembrare classista, invece così non è. Lei che ne pensa? Ma io ho letto il libro di Perotti, che è molto ragionevole. In realtà lui non propone di aumentare le rette, propone di fare questo, ma contemporaneamente fa tutta una serie di altre proposte molto dettagliate e intelligenti. Una parte del ricavato dell'aumento delle rette dovrebbe andare a finanziare il diritto allo studio in forma molto più massiccia di quello che avviene attualmente, cioè ad esempio con i prestiti d'onore, ma soprattutto finanziando anche vitto e alloggio. Cioè attualmente il diritto allo studio consiste soprattutto nel dare delle borse che permettono di non pagare le tasse universitarie o danno un piccolo contributo agli studenti. Tutto il problema invece dell'edilizia e del reddito mancato delle famiglie dei ceti meno abbienti viene completamente ignorato dall'ordinamento attuale. Invece Perotti pensa a un sistema di massiccio aiuto ai ceti più deboli, basato sul fatto che però chi può permettersi l'università, e sono una buona parte degli studenti universitari, perché ricordiamo che all'università non vanno i figli dei poveri ma vanno i ceti medi, i figli dei ricchi, questi si pagano l'università. Questo è, questa diciamo, è la logica, sì, della proposta di Perotti, e che è perfettamente ragionevole e molto di sinistra, perché attualmente l'università invece ha un impianto classista, questo sì veramente triste. Senta, visto che lei è anche un attento osservatore della politica italiana, che ne pensa? Come ho detto, Calderoli ha fatto questa intervista a Repubblica, ha detto: io la prima persona che chiamerei per fare una riforma è Veltroni, ha detto io stesso ho sbagliato, ho commesso qualche errore quando ho fatto di tutto per cambiare la Costituzione a colpi di maggioranza. Sì, ho letto. E tra l'altro si parla appunto di un Berlusconi che si, un po' intento a frenare, perché sembrava che già questa settimana potesse arrivare la riforma, ma forse un occhio ai sondaggi si vede che si rischia di infiammare ancora gli animi sul fronte della protesta. Lei che pensa che succederà in questi giorni? È possibile un accordo o è doveroso un accordo su questo tema? Ma guardi, qui è un discorso molto delicato, perché io sono favorevolissimo a un dialogo, però penso che il dialogo debba avere degli scopi chiari e condivisibili. Ora, un dialogo con un partito come quello di Veltroni, che ha fatto un'analisi dell'università completamente sbagliata, mi sembra forse opportuno sul piano politico, ma ben poco produttivo dal punto di vista dei risultati. Viceversa, un dialogo con gli studenti, diretto, mi sembra molto più produttivo, perché qui il rischio è che il dialogo venga perseguito esclusivamente per smorzare la piazza e non per ottenere dei risultati. Che poi lo proponga Calderoli mi preoccupa particolarmente, perché Calderoli è quello che sta svuotando completamente il federalismo fiscale pur di avere l'accordo dei governatori delle regioni. Qui mi sembra che all'università sta succedendo la stessa cosa, si cerca l'accordo con il Partito Democratico, con Veltroni, per attenuare la protesta, non per risolvere i problemi. Cioè, la premessa di qualsiasi dialogo e accordo dovrebbe essere un'analisi condivisa dei mali dell'università e dei margini di intervento, perché è chiaro che se si dice che gli sprechi sono l'1%, non c'è nessuna base per instaurare un dialogo. Se si comincia ad ammettere invece che la dissipazione di risorse pubbliche è molto più ingente e si ammette la possibilità di intervenire duramente sulle università che hanno i loro bilanci in dissesto, beh, allora il dialogo può cominciare. A questo punto non importa con chi, perché l'importante è che gli obiettivi siano chiari. Un ascoltatore libero da Padova, buongiorno. Sì, buongiorno. Vicchia. Dunque, io volevo intervenire inizialmente sul discorso delle assunzioni, dei prossimi concorsi che vorrebbero, sì, essere bloccati. Brevemente volevo far notare che sì, ci sono più di 3.000 concorsi, eccetto che ci saranno molti più pensionamenti nei prossimi anni. Premetto che sono un docente universitario da Padova, quindi già adesso ci sono diversi settori scientifico-disciplinari che sono in sofferenza pesante per quanto riguarda la didattica, con gente che gira come trottole da anche non solo a Padova. Il problema è che ci sono anche corsi con 5 iscritti e 10 professori. Questo ovviamente è un altro, io parlo dell'Università di Padova, situazione che conosco. Se posso brevemente anche far notare un'altra cosa sul discorso dei concorsi. All'estero, dove sono stato per diversi anni, in Canada in particolare, non c'è nulla di strano nella chiamata cosiddetta personale, cioè il dipartimento si sceglie la persona. Sì. Il problema è che qui ovviamente non c'è il controllo perché venga scelta la persona effettivamente migliore, cioè nessuno paga, per così dire, se viene preso un incompetente che non produce nulla negli anni successivi, basta che sia il nipote di o il figlio di. Sì, quel familismo accademico a cui faceva riferimento Cornaglia Ferraris. A questo proposito, Cornaglia Ferraris, perché lei anche nel libro dice i rettori devono smettere di lamentarsi dei tagli? È una battaglia sbagliata quella che stanno facendo. In fondo i tagli in finanziaria sono previsti, poi certo ci sono gli sprechi, le cose, tutto il resto che stiamo dicendo, però i tagli ci sono. Il problema dei tagli è una questione di priorità, nel senso che è ovvio che noi dobbiamo investire molto come paese nello sviluppo, nella ricerca, nel futuro e nell'educazione dei giovani. Questo è assolutamente ovvio, perché saremo destinati a tornare molto indietro se non facciamo così. Ma mettere risorse in un colabrodo vuol dire non riempire questo colabrodo, vuol dire perdere da tutti i buchi. Quindi l'università attuale è un colabrodo, cioè si buttano dentro risorse e non c'è garanzia di merito, non c'è garanzia di finanziamento del ricercatore più brillante, di selezione, non c'è nessun tipo di garanzia che questi soldi sono investiti bene. Questo è il problema. Allora, i rettori, che sono il nostro faro di riferimento da un punto di vista etico, perché sono un'istituzione assolutamente indispensabile, sono il nostro punto di riferimento morale dell'educazione dell'Italia, devono essere moralmente inattaccabili. Quindi quelle tentazioni di cui parla il professore che è preside della conferenza dei rettori sono tentazioni di amoralità che si sono così diffuse per questioni di legge o per questioni di comportamento, questo poi non ci interessa più di tanto, ma si sono così diffuse che quando persino la Cassazione ha decretato nullo un concorso come quello dell'otorinolaringoiatria di Napoli e di altre cattedre, nessuno si è mosso neanche con una censura, sono tutti al loro posto da 18-20 anni, quelli là sono persone che sono figli di, messi in cattedra da, che non sanno, o perlomeno non esistono garanzie che sappiano fare il loro mestiere. Episodio che è ben raccontato nel libro, come quello del concorso del candidato a Bari che non si voleva ritirare e ricevette questo SMS, non si doveva ritirare perché doveva vincere un altro ovviamente, il professore ha fatto avere il tuo indirizzo a due mafiosi per farti dare una sonora bastonata, oppure anche altri episodi insomma raccontati sempre nel libro. Vittorina da Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, io voglio raccontare la mia esperienza. Io sono un avvocato, mi sono laureata in giurisprudenza all'Università di Roma, La Sapienza, e ho fatto il programma Erasmus in Germania, quindi ho visto com'è l'università in Germania e com'è in Italia, ho potuto fare dei paragoni. Allora, la prima esperienza, il nepotismo l'ho constatato con mano, perché il correlatore che avevo in commissione di laurea aveva 10 omonimi, cioè insomma aveva dei parenti che avevano fatto pubblicazioni che portavano lo stesso nome, quindi insomma già vabbè, non è un indizio, non è una prova, esatto. Ma insomma l'omonimia è un indizio. Poi dal punto di vista invece proprio della didattica, io ho letto articoli di professori tedeschi che vanno proprio analizzando i problemi, cosa che invece i professori italiani, quando si legge un articolo, rimangono molto sulla superficie. Quindi dal punto di vista scientifico ci sono delle obiettive differenze. E altra cosa, la preparazione degli studenti. Gli studenti tedeschi sono molto abituati a lavorare sui casi, quindi quando escono dall'università sono preparati, e gli studenti italiani invece lavorano praticamente studiando libri quasi a memoria, quindi quando si trovano di fronte al caso uscendo dall'università delle volte non sanno proprio da dove. Insomma, lei fa un paragone abbastanza impietoso, mi sembra di capire. La ringrazio, Vittorina. Voglio andare a Sassari da Carlotta, buongiorno. Sì, buongiorno. Io invece volevo parlare, insomma, dare un pochino voce a tutte quelle persone che collaborano all'università, io dico in maniera sotterranea, nel senso che io sono un dottore di ricerca da quasi un anno e continuo a collaborare all'università, a pubblicare, via dicendo, in attesa di qualcosa. E ho sentito un intervento di un vostro gentile ospite che mi ha colpito e da un lato mi ha preoccupato molto, cioè nel senso che diceva che molto spesso chi vuole accedere ai concorsi da ricercatore ha un atteggiamento servile e quindi questo lo... Sì, cioè diceva il contrario, dice per accedere a quelle cose purtroppo bisogna... Purtroppo che cosa succede però? Che in certi atenei, come ad esempio anche atenei piccoli, dove non ci sono strutturati, coloro che sono fuori, cioè istituzionalmente non sono all'interno dell'università, sono anche costretti a dare una mano, perché veramente gli studenti sono tanti e quindi ci prestiamo la didattica, all'organizzazione, ai convegni e via dicendo, ed è un lavoro sotterraneo enorme e purtroppo questo però ci porta molto spesso a sacrificare anche la ricerca, cioè io per riuscire a pubblicare di giorno lavoro su un lato e di notte lavoro sull'altro, e tutto questo gratis. Vabbè, insomma, anche questa è una distorsione, Carlotta, che la ringrazio per aver portato la sua esperienza, una distorsione, insomma, di una conferma del fatto che una riforma ci vuole. Professore De Cleva, lei in questo momento, il ministro Gelmini, che anche oggi ha annullato la presenza al Politecnico di Milano, dove tra l'altro gli studenti si presenteranno alcuni con lutto al braccio, credo. Ministro Gelmini è un po', qualcuno dice, a Fort Alamo, un po' in trincea, insomma, non si espone. Lei ha dei contatti col ministero? Avete contatti come rettore? Certo, come presidente della CRUI, così come ovviamente abbiamo contatti. Questo sarà. Può confermare qualcosa? Ci ha già detto che, insomma, c'è una parziale retromarcia, cioè rispetto a un'irruenza che ci sembrava all'inizio. Mi sembra che sia indelicato dire alcunché. Mi pare che alcune decisioni saranno prese questa settimana e vedremo. Dica almeno una proposta sul tavolo che ci può dire, che magari è pubblica, che voi porterete al ministro a dire iniziamo da qui. Ma di proposte complessive, cioè il quadro di riferimento per quel che riguarda l'elenco dei temi è stato fornito da vari mesi, e d'altronde il Ministero sta lavorando su questo, il Partito Democratico ha lavorato su questo, non è che appunto i temi siano sulla luna, sono temi evidenti, quindi il problema è la strategia, il problema è il grado di impegno, il problema sono le soluzioni. Poi c'è la questione finanziaria, che non è uno scherzo, perché il problema dei tagli, vede, non è una questione di assegnare risorse per il merito o altro. Qui noi siamo di fronte per il 2010 a una serie di tagli che semplicemente incideranno addirittura sulla possibilità di pagare gli stipendi. Ora, sarà bellissimo avere professori non a tempo indeterminato, però intanto lo sono e noi gli stipendi li dovremo pagare. Il taglio è a quel livello lì, non è al livello di intervenire, perché il sistema italiano è un sistema curioso, in cui da un lato magari si inventa l'unica statistica che potrebbe mettere in dubbio il fatto che l'università italiana è sottofinanziata e ci si attacca a quella, come fa il professor Perotti. Il fatto vero è che rispetto a tutti i sistemi avanzati il sistema universitario italiano è sottofinanziato. Naturalmente non ha senso finanziarlo di più, questo io sono d'accordo, se non in funzione di obiettivi che affrontino tutti i vari problemi. Il rapporto docenti-studenti in Italia è inferiore, realmente inferiore rispetto a quello dei paesi più avanzati. Se fosse diverso, probabilmente la situazione della dottoranda di ricerca sarebbe a sua volta diversa. Che tra l'altro ci arriva un sms proprio a dire: l'esperienza della ricercatrice sarda è la norma. Però, professore, le chiedo questo, almeno per la questione dei finanziamenti, non me ne vogliono a Siena, città meravigliosa che adoro, però c'è una Ateneo in dissesto, comunque in grave rosso come conti. A Bergamo, per esempio, c'è l'università con il rettore che dice: io vanto 11 milioni di credito perché siamo virtuosi, ma penso che non li vedrò mai. Almeno su questo a dire, a Siena non vanno perché hanno fatto male, a Bergamo vanno perché hanno fatto bene. Faccio due esempi così. Mi scusi, insisto, come si fa a dire che dei soldi non vanno a un Ateneo quando devono servire per pagare degli stipendi? Poi il vero problema di Siena e delle altre università dissestate è di realizzare dei piani di rientro che evidentemente portino il tempo più veloce possibile a riequilibrare. Sì. Ecco, questo va fatto con risorse effettive e non mettendo sull'astrico persone che non si possono oltretutto mettere sull'astrico. Se no al momento le dice si troverebbero senza stipendi. È così. Quindi, è un po' un gatto che si morde la coda. Però. Ma è un gatto che si morde la coda anche perché questo è un sistema in cui ci sono aumenti automatici di retribuzione, che mentre vengono pagate a tutte le categorie del pubblico impiego automaticamente qualsiasi cosa accada e qualsiasi taglio venga fatto al rispettivo ministero. Nel caso dell'università non è così, e questa è una delle ragioni. Il dissesto nel 2010 saremo tutti come Siena, questo è il punto. Vedremo, no, speriamo veramente di no. Vedremo. No, io spero di no e mi pare che cominci a esserci consapevolezza che non ci si può arrivare, quindi probabilmente ce la caveremo. Fermo restando che non si tratta di cavarsela, si tratta effettivamente di affrontare i problemi che sono stati evocati. Allora, io mi devo fermare qui, voglio ringraziare il rettore De Cleva, il professor Luca Ricolfi, Paolo Cornaglia Ferraris, di cui voglio ricordare il libro, se qualcuno poi volesse approfondire gli esempi, e si intitola La Casta Bianca, viaggio nei mali della sanità, edito da Mondadori, ma insomma si parla, ripeto, molto di sanità, ma anche anche molto di università e rapporto tra università e mondo della sanità, mondo che lui conosce essendo pediatra. Ci fermiamo qui, grazie per averci ascoltato. Alessandro Marcotulli ed Elisabetta Fusconi in redazione, come sempre, Giorgio Matè in regia con Viva Voce. Ci ritroviamo domattina.